Incontri di Gianfranco Fabi. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Con questa voce di Lucio Battisti, si viaggiare, una canzone che evocherà molte cose a quanti ci ascoltano e evoca molte cose anche a Giuseppe Meregalli. Buongiorno e buon pomeriggio. Buongiorno a lei. Perché si viaggiare, dottor Meregalli? Perché viaggiare, il viaggio è una vita, la vita è un viaggio e la vita anche aziendale è un viaggio. Si sa quando si comincia, bisogna percorrerla, cercare alle volte un po' di velocità, un po' meno, ma sicuramente viaggiare, mai fermarsi. Perché la sua azienda non è un'azienda stanziale, ovviamente è un'azienda che ha una sede, però è un'azienda che guarda un po' a tutto il mondo. È un'azienda che cerca di guardare nel mondo, una parte riesce a guardarlo, di certo non è mai stata ferma, è sempre stata in viaggio. Questo è ancora oggi, ancora più di ieri, in questi momenti bisogna viaggiare. Forse era ferma 150 anni fa, anzi un po' prima, quando è stata fondata, ed era un'osteria, mi sembra. Beh, c'era già in questa osteria, c'era già una parte di imbottigliamento e di ingrosso, come usava una volta, perché il vino è una cosa degli ultimi 30 anni, il vino di oggi, il vino visto come bene di lusso, bene di consumo di una certa cosa e non più di consumo abituale da energia, quindi da calorie a poco costo. È cambiato il mondo, oggi il vino è un piacere. Quindi abbiamo scoperto le carte, stiamo parlando con Giuseppe Meregalli, presidente dell'azienda vinicola Meregalli di Monza. Monza si fa del vino? A Monza è una domanda che mi viene rivolta spesso e dicono: ma come mai a Monza? È semplicissimo, dovrei dire Milano, visto che oggi siamo a Milano. È Lombardia, è il cuore del mondo, dell'Italia, da qui parte tutto per il mondo. Io a Monza non imbottiglio, non produco, vendo, quindi sono un commerciante. E dov'è che è la miglior sede? Nel centro commerciale d'Italia. Quindi la vostra è un'azienda che ha appunto una sede, che da questa sede poi compra, vende, imbottiglia in altre zone. Imbottiglia, produce anche, produce in altre zone. Dove sì. Producete? Produciamo in Toscana, con una bellissima azienda, bellissima perché la Toscana di per sé è molto bella, poi quando la costruisci una tua azienda e la vedi nascere alberello per alberello, mattone per mattone, l'agricoltura, visto che è un'azienda agricola, l'agricoltura ti prende, è una brutta bestia l'agricoltura, è un sistema perfetto per perdere i soldi. Perché beh, mai come i mercati finanziari comunque. Beh, i mercati finanziari tra l'altro non divertono, almeno l'agricoltura diverte, perché quando vai è bello. Ha mai pensato di entrare in borsa? No, assolutamente. Noi siamo un'azienda nel vino, grandi aziende da borsa, bisogna andare in altri, in Australia, Stati Uniti, Cile. In Italia non esiste un esempio da borsa, perché i fatturati del vino sono importanti nel nostro settore, ma pur sempre piccolo nell'universo delle aziende. Comunque voi non vendete solo il vostro vino, vendete anche altri vini che fanno concorrenza al vostro vino. Beh, concorrenza, in effetti sì, c'è un detto che la bottiglia scaccia un'altra bottiglia, se uno ne beve uno non può berne due, però è la gamma oggi che ci porta in giro per il mondo, che ci porta prima di tutto in Italia e poi nel mondo. Oggi bisogna dare una gamma, i consumi sono completamente cambiati. Conoscevo nella mia infanzia persone che nella vita avevano assaggiato un solo vino e sono nati e morti con quel vino. Oggi noi andiamo al ristorante o anche nella casa, ci piace cambiare, nulla più è stabile se non la moglie. Speriamo, ma qualche volta c'è anche quella, comunque è bene che sia stabile, rende più tranquilli. Ecco, il vino invece c'è una grande scelta, voi quante etichette noi avete? Noi abbiamo circa 1500 etichette in vendita. Quindi siamo sicuramente oggi l'azienda distributiva con la più ampia gamma, dovrei anche dire col più ampio fatturato. Lo posso dire, il più ampio fatturato, che viene anche da questa forza che abbiamo, dove curiamo tutta la filiera, quindi la filiera logistica, okay, che una, con 1500 etichette comincia a essere una cosa importante. Non solo italiane. No, noi siamo nati, sono nato quando ho cambiato l'azienda di mio padre, proprio come distributore di vini esteri, soprattutto francese. Io conosco, la mia formazione vinicola del lusso è più francese che italiana, perché tanti anni fa il lusso del vino italiano non esisteva o quasi, e quindi bisognava attingere alla Francia, bisognava sentire la Francia cosa faceva. Oggi di certo i nostri 100 anni di gap che avevamo sono diventati molto meno, o in alcuni casi come i vini rossi o che siamo andati molto forte, siamo andati più forti e gli abbiamo messo il sale sulla coda. Sì. Comunque c'è nel vino una certa esterofilia anche al di là della qualità, oppure si bada alla qualità, rapporto qualità-prezzo? No, l'esterofilia c'è una cosa che abbiamo sempre imputato ai francesi, che era lo sciovinismo. Ancora oggi ne hanno, sono ancora un po' impregnati, non più come una volta, ma un po' sono impregnati. L'italiano non è mai stato sciovinista in nulla, anche perché se parliamo di 30 e oltre anni fa, le nostre produzioni, tolto le vetture, che purtroppo siamo amanti, io e mio figlio, di vetture, e purtroppo le vetture italiane, tolto un caso eccezionale che è invidiato da tutti, ma per il resto non sappiamo più costruire belle vetture e quindi siamo rivolti ai tedeschi. Ok, lo sciovinismo nel vino e adesso è arrivato, cioè vediamo, adesso, no? sì adesso negli ultimi tempi il vino italiano è bello, il vino italiano è buono, il francese lo scarto. Ecco, anche c'è un po' anche nello champagne, nei vini tradizionali francesi, i vini italiani stanno prendendo un po' il sopravvento. Beh, lì insomma le statistiche bisogna saperle leggere. Voi giornalisti, mi scusi, ma su molti giornali, compreso Il Sole, sono arrivati degli articoli, ad esempio, che l'Italia ha battuto largamente la Francia per i vini spumanti. Questo è proprio una cosa non vera. Mentre abbiamo detto per i vini rossi o per altre cose abbiamo fatto passi da gigante, con gli spumanti siamo veramente ancora malmessi. Il malmessi è che noi vendiamo tantissime bottiglie, forse più dei francesi, dico forse perché la classifica non era completa, ma sicuramente il prezzo ci fa una grande differenza. Lei pensi che 330 milioni di bottiglie di champagne prodotte e vendute nel mondo generano 6 miliardi, 5 e mezzo miliardi di cifre d'affari. Il prodotto interno lordo del vino italiano sono tra gli 8 e i 9 miliardi. Ecco, forse in Italia si vende adesso più spumante italiano che non champagne francese? Sì, in generale, compreso però non gli spumanti champenoise. E sì, siamo avanti, ma non di gran numero. Siamo molto avanti con i prosecchi, con i moscati, con questi, ma anche loro hanno tutti i loro vini a denominazione che non sono champagne, allora li fanno grandi numeri anche loro. Ecco, il mercato come si divide un po' tra i vini bianchi, i vini rossi, i vini... Oggi la tendenza è più sul vino bianco, spumante e vino bianco. C'è anche sicuramente da fare un'analisi economica, spiego meglio. Oggi si va al ristorante e si ordina una bottiglia di vino, generalmente bianco spumante, con cui si fa l'aperitivo, e la seconda di rosso per questioni economiche non la si usa più, la si vorrebbe ma non la si ordina. Si usa il vino tutto pasto, in pratica, pasto, più per accompagnamento. Pasto. Quindi è un'abitudine dettata un po' anche dai fattori economici. Poi anche dalla nostra gastronomia, che la gastronomia tradizionale italiana, specialmente in Lombardia o più precisamente ancora a Milano, è difficile ritrovarla, quindi questi cibi, diciamo, un poco dichiarati pesanti, che volerebbero magari un vino rosso delle nostre zone, tipo Oltrepò, San Colombano, magari anche Frizzante, che sgrassi via, non ci sono più. Oggi andare a trovare una osteria, una trattoria tipica milanese a Milano è molto difficile. E i ristoranti forse ricaricano un po' forte il vino, i prezzi sono un po' alti. Sa, questa è una cosa che si dice normalmente. Io dico, bisognerebbe provare ad andare a mangiare in un ristorante francese a vedere cosa sono le ricariche. Cariche del vino, le nostre impallidiscono. Ci troviamo che siamo dei poveretti che carichiamo qualcosa sulla bottiglia, ma niente di più. Questo è per, dato che parliamo nel pomeriggio, per non rovinare la digestione ai nostri ascoltatori. Il vino aiuta un po' a digerire anche. Il vino è diuretico, digestivo, e tra l'altro ormai è una cosa scientifica provata che faccia anche bene alla circolazione sanguigna, al cuore, quindi a tutte le arterie. Il colesterolo buono sta nel vino, quindi, o nell'olio d'oliva se vogliamo, e non in altri cibi, e quindi è un aiuto veramente. Un bicchiere di vino non ha mai fatto male. È un consiglio un po' interessato ma sincero. Incontri. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumare. Ancora con le note di Lucio Battisti, Sì, viaggiare. Riprendiamo il nostro incontro con Giuseppe Meregalli, imprenditore, presidente dell'azienda vinicola Meregalli di Monza. Ecco, l'azienda vinicola che ha sede a Monza è una sede, mi sembra, anche un po' storica. Sicuramente storica, perché Monza è conosciuta per tante cose, ma sicuramente conosciuta per la monaca di Monza, la signora, la suora Virginia de Leiva. Sì. E abbiamo un legame con questo, con Milano, perché Palazzo Marino abitava la famiglia de Leiva, i viceré di Spagna, quindi come si usava allora, qualche figlio lo si mandava in qualche convento. La monaca è arrivata a Monza in questo convento. Non era certamente la sua missione, il suo volere di stare. Lo dice esplicitamente Manzoni nel suo romanzo. E abbiamo avuto la fortuna, tanti anni fa, papà ha comperato questo posto senza sapere che c'era le vestigie rimaste, questa cantina vecchia, questo pozzo, che sono risalenti al 1400-1500, quindi all'epoca di Suor Virginia de Leiva. Quindi è verosimile che fosse il convento della monaca di Monza? Non è verosimile, è storico, provato, sì. E si può visitare un... Si può visitare il suo appuntamento, perché in questa sede ricostruita nell'Ottocento, perché erano anche nell'Ottocento era stata presa da un convento di altre suore, quindi questi signori commercianti di vino da allora avevano acquistato il convento demolito e ricostruito. Abbiamo anche una cantina, diciamo, di inizio Novecento, a doppia botte, a doppia volta a botte, quindi simpatica da ritrovare in una città, in centro di una città è difficile trovare una cantina di quelle dimensioni, tutte in mattoni. E lì abbiamo ancora oggi la nostra reception, siamo attrezzati. Ma è ancora una cantina con i vini? Ancora una cantina con i vini, direi vini un poco particolari. Sono un poco la cantina personale mia e di mio figlio, non in vendita. Abbiamo un certo numero di bottiglie di annate dove preleviamo con gli amici per bere. E invece il magazzino, la cantina vera e propria, dove l'avete? Le cantine vere e proprie, quindi tutto il nostro gruppo logistico, ne abbiamo a Lissone e a Biassono, che sono due città confinanti con Monza, dove si poteva allora costruire con una certa dimensione tutto assieme e la viabilità poterne usufruire. Oggi con i camion in centro città non si viene più, insomma. Ecco, col vino forse è un po' difficile attuare quella regola del management che dice just in time, cioè produrre per vendere immediatamente. Il vino richiede anche una conservazione, un invecchiamento, quindi voi avete anche uno stock di magazzino. Abbiamo uno stock piuttosto importante e per i vini è conservato in cantine, perché prediligo sempre l'idea che è più facile costruire dei metri quadri, il costo lo tieni poi nella vita, che non magari costruire all'esterno e poi metterci dei grandi impianti che costosissimi con l'energia per tenere il vino nelle migliori condizioni. Il just in time per noi lo si fa con la spedizione, lo si fa con la amministrazione, lo si fa con tutto questo. È difficile poterlo fare col vino, anche perché la produzione del vino non è giornaliera, certo. La vendemmia una volta all'anno. Infatti, quando poi non si salta un anno. Mentre invece il consumo, ecco, risente un po' dei fattori stagionali oppure... Il consumo certo risente dei fattori stagionali nella tipologia, non nell'assoluto della consumazione, perché un bianco o uno spumante va anche tutta estate. Magari un grande rosso ha più facilità a essere bevuto e quindi venduto nei mesi invernali. Ecco, voi avete anche una rete internazionale, una rete all'estero. Quali sono i punti di forza di questa rete? I nostri punti di forza sono, oltre di avere una rete così di importatori e quindi noi di esportatori, siamo ancora oggi l'unico esempio italiano, ma abbastanza europeo, dove abbiamo delle sedi nostre, delle società nostre, tra l'altro a Parigi, che l'ho aperta nel 1990, quindi 21 anni fa, in epoche che parlare di vino italiano in Francia era veramente dura. Era un po' come vendere frigoriferi gli esquimesi, come si era dice. Come vendergli, perché tutti dicevano, ma ci sono tante pizzerie, ma non è il nostro target. Certo. E le pizzerie oggi francesi è più facile che ci siano dentro degli egiziani, mentre... Beh, anche a Milano ci sono molte pizzerie gestite da egiziani. Mentre oggi è facile trovare su Parigi, sulla Francia, dei grandi o dei buoni ristoranti italiani, gestiti o da italiani o da francesi che fanno cucina italiana, perché alle volte c'è un nome italiano fuori e poi il primo grande chef Ducasse, il cortile ha un nome italiano e la cucina è di Ducasse. Quindi la Francia e altri paesi che vi hanno dato soddisfazione come mercato, su cui state puntando, in cui possono crescere appunto le in quote? In forma diretta con la Svizzera, che abbiamo una società in Svizzera, la Meregali Suisse, che quindi ci dà soddisfazione, soprattutto perché imponiamo, facciamo noi il brand che vogliamo vendere, non ci facciamo imporre dagli acquirenti, siamo noi che impostiamo dei prodotti, quindi questa è una grande soddisfazione. E poi oggi il BRIC, a iniziare dalla Cina, questi ultimi anni di crisi economica ci ha dato soddisfazione, ma è una soddisfazione economica e di volumi, più che una soddisfazione di un uomo legato alla sua attività col cuore. Ho capito, ma quindi c'è una soddisfazione economica, quindi comunque la Cina si rivela un mercato promettente anche per prodotti come il vino? Anche come il vino, perché la Cina ha un grande scambio con l'Italia o con l'Europa, grande scambio perché oggi se lei gira per Milano, quanti ristoranti cinesi o giappocinesi che trova? E lì viene una cultura del vino, loro portano i loro chef, portano i loro camerieri, portano i loro familiari e questo ha trasferito un modo di vivere europeo, quindi anche col vino giù da loro, poi l'internazionalità del business, quindi hotel internazionali, ristoranti internazionali, quindi ci si muove in una fascia alta. Nella fascia bassa è molto difficile perché ci sono altri paesi molto concorrenziali col prezzo o gli stessi cinesi che oggi si parla tra il quarto e quinto produttore mondiale di uve da vino. Ecco, ma voi per esempio può capitare che vendete vini australiani in Cina? Quello è una questione che si potrebbe fare, che gli chiederebbero anche, ma è una questione di contratti. Se io distribuisco dei vini australiani con un contratto italiano, cerco di attenermi al contratto e di vendere in Italia. Le richieste ci sono. Ci sono. Ecco, quindi voi comprate, intermediate vini da molti paesi? Da molti paesi, dai grandi paesi produttori del mondo, che poi è una nostra mission aziendale di avere questo grande assortimento. Se dobbiamo dire anche la verità, i fatturati di questi vini, diciamo, dei nuovi paesi produttori, anche se ormai non nuovissimi non sono più, a cominciare dagli Stati Uniti, ma il fatturato in Italia è veramente una cosa esigua, marginale. È più qualcosa di complemento che serve a dare completezza forse, sì, all'offerta? Di dire che la Meregalli è una società di distribuzione globale del vino, è lo specialista del vino, ma anche noi se dovessimo fare un ragionamento economico, alle volte si pensa a alcune cose di toglierle se solo per l'economia. Ma quindi avete vini aziendale. Californiani, cileni, argentini, californiani, australiani? Siamo stati tra i primi, in effetti siamo stati poi in due in Italia che abbiamo iniziato a importare questi vini, ormai 30 o più anni fa, quando parlare di vini californiani, chissà cos'era, era una chimera, era un'incognita, era un qualcosa. E ancora oggi ho ancora quell'azienda che importavo, hanno cambiato diverse mani la proprietà aziendale perché lì sono in borsa, sono grandi gruppi finanziari, non c'è un titolare e quindi cambiano magari sovente o facilmente, ancora adesso ha cambiato, è del gruppo Foster Beer che ha appena cambiato proprietà alla borsa, hanno fatto un OPA, quindi anche il vino è andato dentro in questo. Ho capito. Ecco, ma c'è stata qualche sorpresa, appunto, girando un po' il mondo, viaggiando, come dice Lucio Battisti, ma appunto andando a cercare anche dei vini per ampliare l'offerta, ha trovato qualche sorpresa a dire questo è un grande vino che era un po' nascosto e che posso portare alla ribalta, che sono in Argentina piuttosto che in altri paesi? Ha toccato anche l'Argentina. Oggi c'è un grande Pinot Nero argentino che ha sbaragliato anche in alcuni concorsi vini della Borgogna, che è la tipica regione dei Pinot Nero al mondo, la più conosciuta. Oggi un pezzo di terra atto a metterci una vigna e la tecnologia la si trova dovunque. Basta avere degli agronomi buoni, una bella scelta di terreni e poi la meccanica ormai legata alla produzione, la meccanica è un termine un po' brutto, diciamo, la tecnologia produttiva legata alla materia prima uva ha fatto passi da gigante. E in questo c'è una cosa che ci rende molto euforici e quando si è in giro per il mondo del vino molto dignitosamente arroganti, perché la grande produzione dei macchinari di questa tecnologia del vino, dell'imbottigliamento, la fermentazione e tutto è italiana. È italiana, quindi l'Italia è un po' all'avanguardia anche nei settori complementari, indispensabili appunto alla produzione, l'imbottigliamento, lo stoccaggio, le cantine. Molto all'avanguardia. Noi prima eravamo, tanti anni fa, si parlava nel nostro campo filtrazione, etichettaggio, imbottigliamento, si parlava della Germania perché tutto quanto era meccanico, tedesco e bello, certo. O della Francia perché è la culla della produzione, quindi era francese, era bello. Oggi è bello italiano e questo è un grande motivo d'orgoglio. Quando si apre il mondo, che entri in certe cantine, che te la raccontano un po' a destra e a sinistra, poi li vai su lì e dici ma questo nome mi sembra un po' italiano. Eh sì, effettivamente usiamo della tecnologia italiana. E anche i nostri winemaker, un brutto termine mutuato dall'America o comunque dai paesi anglosassoni, chiamiamolo ancora enotecnico enologo. E questi nel mondo ormai italiani ce n'è tantissimi che portano la nostra tecnologia. Ecco, siamo in conclusione, un sogno che lei ha, qualcosa che vuole realizzare, un obiettivo per la sua azienda, che adesso è gestita peraltro dai figli, che se sono capaci come lei sicuramente faranno grandi passi, ma lei quale obiettivo vorrebbe avere ancora per la sua azienda? Quale mercato, dice, vorrei magari conquistare? In quale settore vorrei entrare? Proprio in questi giorni stiamo vedendo di mettere in piedi, ci manca un po' di firme, un po' di contratti e un po' di permessi, ma ormai siamo, diciamo, credo allo stadio finale di andare alla conquista dell'Africa, con la costa west dell'Africa dove c'è il petrolio, e quindi dove c'è petrolio ci sono anche i soldi per poter comprare bene. Quindi l'Africa come prossimo obiettivo, speriamo magari di poter brindare insieme alla conquista dell'Africa in senso positivo. Che è solo un viaggiare, non è un punto d'arrivo. Grazie mille a Giuseppe Meregà, imprenditore e presidente dell'azienda agricola Meregalli di Monza, che ci ha fatto compagnia questo pomeriggio, così come ringraziamo Roberto Scaltritti in regia e Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.